prima di riprendere con il tema che stiamo trattando questa sera, Massimo, mi tocca raccontare questo piccolo episodio che è successo durante, chiamiamolo pausa canzone. Sì. Massimo ha importunato dal balcone una povera monaca. Vabbè. Quindi sarà perseguitata anche dalla chiesa. Dal clero, sì. Possiamo sì, continuare dal vescovo. Adesso. Penso che i nostri audioascoltatori abbiano diritto di combinare. Sì, sì, c'è già il clero, tutta l'associazione cattolica, tutti gli amici benbenzanti che mi verranno a prendere a fucilato, a badilato, come nella scorsa puntata dove ho pesantemente offeso gli interisti. Prego il nostro regista di fare ciò che deve fare. Sì, sì, sì. Con i Cacio Cavalli, sì. Anche perché dobbiamo ricontrarlo anche oggi. Il tassativo dei 4+1 caseificio Roberti, attenzione perché qua scoppia un qualcosa, un lampadino fufum. Dobbiamo ricordare sempre caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti, caseificio Roberti. Dillo tu, se no arriva uno e mi ammazza. Caseificio Roberti. Ecco, anche in questa puntata non abbiamo chi ci ammazza con un caciocavallo da dietro, tipo aggancio. E sempre un grande abbraccio alla nostra Cristina Roberti dell'omonima ditta, come si suol dire. Dunque, io direi passare più che ai personaggi principali, al mondo dei personaggi secondari. Perché veramente, oltre a tutti i protagonisti, ci sono veramente grandi personaggi. C'è Bo, per esempio. C'è Bo, Mo, perché in America si chiama Mo. Ah, per questo ogni volta l'insegna cambia. Io non ho capito perché da Mo l'hanno spostato a Bo, per esempio. Va. Fa più effetto. Mo, Bo, va. Insomma, poi ci sono gli amici di Homer della cantina, no? Del bar. C'è Barney. Sì, sì. C'è Barney qua, intanto la radio continua a distruggersi. Allo scatafascio, sì, tra LED, cose. Veramente, secondo me, c'è Kentman questa sera, ma spero di no. O il Ricottaro, sì, sì, sì. Abbiamo detto Carl e Lewis, no? I due amici di Homer alla cantina. C'è il commissario Winchester. Io li chiamo Ringo. Ah, vabbè, c'è il commissario Winchester, no, il commissario proprio. Il napoletano. È come i carabinieri della zona Vallecrate. Sì, che dà al figlioletto, non ricordo il nome. Ralfuccio, il filosofo, colui che doveva andare all'università bovina. Colui che si mette le palline nel naso. Sì, sì, sì, colui che chiama mamma la maestra, colui che comunque dice che da grande vuole fare il direttore o il millepiedi. Questa è una grande satira, ricordati. Ralph Winchester, ricordiamoci, anche opinionista del New York Times in una puntata. Devo prendere l'autobus o meno? Sai. Mai visto. Ma me la sono persa. Ma tu con la televisione sei in un mondo parallelo. Sì. Poi ci sono tanti altri personaggi secondari. Te ne viene in mente qualcosa? Skinner! Il direttore Skinner. Il mammone, quello che non doveva passare dalle gallerie, gliel'aveva vietato la mamma. Cioè, quello che non doveva portare donne a casa. Cioè, mentre poi il sovrintendente Chambers si faceva la mamma. Cioè, proprio assurda sta cosa. La mamma Agnes. Una mezza puntata. Il dottor Hibbert. Cioè, quello che ride sempre, come uno scemo. Che la laurea non si sa chi gliel'ha data. Comunque. Vabbè, sì, fratello di gengibre. Le sorelle di March. Sì, sì, sì, le sorelle, sì, ma lasciamo stare perché le qua mi viene proprio. Dipendenti, le tossicodipendenti. Una, sì, ricordiamo, una è fidanzata con Luca Moio, un'altra praticamente l'abbiamo a Bisignano. Speriamo non che di quel ci inviterà nome. Al suo matrimonio. Speriamo, sì, sì. Ma ricordiamoci anche che c'è la sorella lesbica tra queste due, non so se sia Patti o Selma, è quella che c'ha l'iguana e la figlia adottiva. Ecco. Mi pare fosse Selma, la figlia adottiva che hanno preso in Cina. Sì, la cinese. Hanno provato a illudere. C'è nonno Simpson e tutto l'ospizio, no? Tutto con le sue storie infinite sì, sulla sì, guerra sì. Eravamo nel si perde sempre sì, le sue storie allucinanti sì, ecco quando poi si prese a palate pesante con il barbone che si prese poi una villa in oro massiccio, ci fu una puntata, si prese anche a scazzottate, oppure quella puntata in cui praticamente incastrò la barba nel temperamatite di un altro suo collega, quello fu veramente un qualcosa di assurdo. Su questo ti devo bloccare perché comunque certo. Il nonno Simpson non ha la barba, era un l'amico. Senti, non mi devi contraddire quando qua, non è che quando uno dice 50-50 cioè, non è che stiamo qua a giugiulare o a smacchiare i leopardi o i leonardi passati per Milano di qua e di là. Altri personaggi, poi vedremo se ce ne viene in mente qualcuno di più importante tra i secondari. C'è lo schizzato, l'autista dei pulmini, Otto, c'è Apu, eccetera, eccetera. Poi ce ne sono tanti altri che qualcuno si è preso anche la briga di elencarli uno ad uno, ci hanno fatto anche dei libri sulle comparse. Leggo per esempio Artie Ziff, quello che si voleva fare March, quello che fece sì, come no, la marchetta quello... degli anni 70, e appunto disse $1000 per far finta di essere negli anni 70. Chi ste pazzo, commentava Winchester, quello con l'arti ziff, insomma. Poi vediamo se ne troviamo qualcun altro. Billy, ecco, Billy perché mi sta simpatico, l'attore bambino che affianca Troy McClure. McClure. Sì, se lo dice così. È quel bambino che fa la figura da scena. Sì, poi sì, il minchione di Capitol City, la mascotte di tutti i bambini, quella con il naso a tromba. Prende sempre un sacco di parate. Anche. Poi, l'ape, come si chiamava l'ape? Come si chiamava l'ape veramente? Come si chiamava l'ape? No, non è Maya. Non è Maya. Vabbè, vabbè, poi come non citare l'odioso personaggio di Krusty il Clown, quello che veramente da prendere l'ammazzato in fronte, Clown, sì. Clown. Quello con l'osso in testa, la scimmia, che viene indagato, la scimmia che gli scrive i copioni, così come non aprite quella persiana. Scusate, mi è uscita. C'è una scimmia che si mette e fa i copioni. Ma anche qua, d'altronde ve ne state accorgendo, anche in questo programma c'è una scimmia. Ricordiamo la mamma di Homer che scompare. La mamma di Homer che scompare, però riappare. Sì, sì, la fricchettona che fece passare l'acne, sembra Winchester. Personaggioni, pronto. Mr. Burns, ce lo eccellente. Sì, sì, il decrepito Mr. Burns, 104 anni, con la mamma ancora viva. Con la mamma ancora viva. E città. Sì, così, E poi quella checca di Waylon Smithers, no? Che se la fa con il maestro di musica. Ma. Questa è tutta un'altra storia. Ecco, poi altri personaggi così simpatici, la cuoca Doris, quella che... Ah sì, quel col brufolone, i capelli col lunghi. Brufolone, sì, Willy, ahia, che è più forte di Gigi Riva. Con il kilt. Con il kilt, sì. Ed ecco appunto il maestro Checca, di Largo si chiama, quello che se la fa con Waylon Smithers. E si ecco, che fumi maio. Ed ecco l'omaggio al nostro caro pugile qui in sala. La parodia di Mike Tyson, Frederick Tatum, nei Simpson, che in una puntata deve combattere con Homer Simpson. E questa è una bella dichiarazione che penso che anche il nostro Walter prima o poi la dice. Io penso che Homer Simpson sia un bravo uomo. Mi è simpatico e non ho niente contro lui, tuttavia renderò vedova sua moglie ed orfani i suoi figli, ecco. È bella sta cosa. Ecco, mo Walter penso che la rigirerà a me sta cosa, ma pazienza. Poi l'uomo birra, il Duffman. E poi Eddie e lui, gli scagnozzi del commissario Winchester, quello che parla in Tarantino. Boh. In Tarantino. Tarantino, era si di dice Tarno, così. Era di Tarantino, sì, sì. Tarantino. Sì, sì. Quello è l'accento di Tarantino, d'altronde. Poi Frank Grimes, il Grimmione, quello che venne preso così a miracolo a mostrare, e Homer al suo funerale dice, cambia canale, Marge, guarda, quello... Voglio un funerale in questo modo, che si alza uno e dice cambia canale. Mi pare fosse un ingegnere. Un ingegnere, sì, sì, preso insieme a un pastore tedesco visto in televisione. La gattara, fine che farai tu, secondo me. Quella che lancia i gatti, aveva due lauree e poi è impazzito, sì, sì. Non sapevo avesse due lauree. Aveva due lauree. Probabilmente ce l'ho anch'io, non lo so. Ce l'hai nascosta da qualche parte. Poi vediamo se ci sono altri personaggi meritevoli di menzione. Qua sto scrollando Luigi Risotto, no, quello che sembra Super Mario, quello che vendeva la pizza a 7,90 euro, che parlava un americano maccheronico, disse proprio così in una puntata. Poi Mangiula, la moglie presa al postal market di Apu, sì, quella che aveva 8 gemelli. Pucci, il cane di Grattachecche fighetto. Dimmi, che ha durata bene, spareresti con la voce due, di guarda. Homer Simpson. Proprio già Tom e Jerry fanno venire veramente l'artrosi. Figurati questi due. Non ti ricordi la puntata di Pucci? Sì, sì, sì, Pucci che lo faceva Homer Simpson. Che invitò tutta Springfield. Ti sono state tagliate proprio le gambe, Homer, sì, in quel frangente. Poi il ragazzo della voce stridula, il figlio della cuoca, quello che trovi sempre nei fast food, eccetera, eccetera, che in una puntata in... Quello brufoloso, sì. Bravo. In una puntata al bowling... Litigò con sua madre che disse io non ho più un figlio. Guarda, proprio una scena bellissima. La cosa più bella da dire a un figlio. Sì, sì, sì. Ma il figlio non gli aveva trovato la sala libera. Quindi sì, se la merita sta cosa. Poi vediamo se c'è qualcos'altro. Ricordiamo che molti personaggi politici sono sempre entrati sì, a far parte delle puntate. Ogni tanto c'è Bush, Nixon, che c'è in qualunque film e cartone americano. C'è sempre Nixon, come giri. Poi le due gemelline che vanno a scuola. Sì, Sherry e Terry, quelle due che gli puzza il fiato, secondo me. cretinette, diciamo. E infatti, due cretinette, come abbiamo visto in una puntata dei Simpson, fanno la parodia di Shining. Ah, sì, sì, sì, sì. Ricordi il film di Jack Nicholson, sì, con Jack Nicholson. Ma ne parleremo a tempo debito. Poi il ricco texano, quello che spara, e spara a casaccio, l'uomo ape. Te l'avevo detto. Che si chiama proprio Uomo Ape. È un comico travestito da Bombo. Pensavo da Bombolo. Era meglio da Bombolo. L'uomo ape in realtà si chiama Pedro. Ecco, bene ricordarlo. Poi Uther Zürcher, quello il ragazzo degli scambi culturali, quello che aveva le gambe di marzapane. Homer, sì, sì, gli vede le tettine e poi lo prende con un asciugamano bagnato. Una cosa bruttissima. Negli spogliatoi. Negli spogliatoi. E poi l'elefante di Bart, Zampone. Penso un po'. Dunque, io direi, ci siamo fatti 10 minuti di filato parlato. Tanto di Babbo Natale, parla di Neve 1, 2, 3, la vendetta, eccetera, li hanno eccetera. Sterminati tutti. Mandiamo un'altra canzone, sì, li hanno sterminati tutti, e ci ritroviamo tra qualche minuto.